fai un passaggio Gio Maria, avanti, fai un passaggio Gio Maria, non parla più. Va bene adesso. Ehi, ma non è che dico l'antenna staccata, ma il polo centrale. Non avevo fatto la commutazione. E allora per quello. Buonasera mamma. Ehi, credo che fossi in macchina là in qualche parte, limitrofa Sassari. Eri 7:05, in mezzo proprio alla propagazione. Ehi, ma adesso no, No, poc'anzi ero giù. Ero in cantina con l'antennino, capito? Adesso sono passato qua con l'antennone. Però avevo fatto la commutazione, mi sentivi anche basso per quello, capito? Perché adesso io c'è l'antenna, Sì, in cantina ti ho sentito, arrivavi, mi pare, roba di Santiago 9. Cantina? Mi pare. Io 9 ho visto. No. Senti, mi sento bene, anche contro la zona. Ma Antonello già mi sente ugualmente, anche quando sono in cantina, vero? E quando sei in cantina, sì. Per cui già va, lo sa che è dentro casa quell'attimino. Già va, la frusta nera. Già va. Io piace tanto stare quando sono giù magari combinando qualche cosa, c'è un baracchino, me l'accendo e ascolto, e quando capita chiacchiera anche Marco. Eia, va bene, mi ricordo la frusta nera, ne avevo usata anche in macchina, la più bella era la PLC 800 o PLC 1000 in fibra, era lunga un bel po', tipo 1,80 in fibra nera, solo che il problema c'è per quello che se becchi un ramo con quell'antenna si spezza l'antenna, mentre quelli in acciaio si piegano a 180 gradi e imputtolano dritte. Ma infatti, c'ho anche quello, c'ho anche la base magnetica, quella è lunga, tocca appena qualche punta di albero si piega sì. Dopo ho messo un'altra piccola, quella andava molto bene, mi sembra che si 50 o 60 centimetri. Quella andava molto bene. E quegli altri l'avevo fatta e ho messo, quella mi piaceva che era molto buona, la Culbre, altre volte ricordi la Culbre, quella gialla che rimaneva grossa sotto, un ciccone più in sopra andavi più fine era. Colibrino me la ricordo, io usavo una frusta della Blem forse, ed era alta 80 centimetri, mi pare, sì, 80 centimetri, il solito attacco al galletto, e bene o male, tenevano pochi canali, tipo 40 canali, però andavano, funzionavano insomma, certo, sai perché la scarsa larghezza di banda, il coso, il conduttore da quanto è un millimetro era, quindi non hai larghezza di banda come quelle che hanno il conduttore più grosso. Infatti, no, questo c'avevo quello più grosso, il mio. Non c'era ancora quell'antenna, ma quella l'avevo fatta io però, l'avevo accorciata io, siccome l'avevo messa sul, era da grondina, l'avevo messa sullo spartellone di dietro, sulla Renault, l'avevo messa, e ho visto che andava molto bene, l'ho accorciata, sono riuscito a accordarla, ed era mi sembra 50-60 centimetri, e ce l'ho ancora in magazzino lì. No, in macchina non ne metto più antenna, no, per nessuna ragione. Ma quando ho preso la macchina nuova non ho messo più baracchino in macchina, non ne metterò perché no, non mi va più. La macchina uso pochi niente, allora cosa attacco a fare? Per andare a fare la spesa, attacco il baracchino, nemmeno per soldi. per cui c'è anche la, come si chiama, quella con la camicia, come cavolo si chiama, ma quella è lunga, è abbastanza lunga, però è che la usa quella lì. Allora, quella che io uso attualmente è una penna con uno stilo d'acciaio, è della Midland, si chiama Midland ML145, è lunga 1,60 m, e la base magnetica è di serie, cioè in quel era compreso tutto, era la vendo sia separata che tutto assieme. La base è da 120, sempre della Midland, e praticamente mi dà meno di 1,3 sull'1 e meno di 1,3 sull'80, capito? L'ho tarata al 40 come centrobanda. Per se tarata vai, va. Però per avere una buona massa rimetti un pezzo di cavo alla carrozzeria e va più bene, perché io la mettevo così, ci avevo messo insieme, siccome ci avevo l'imperiale, no? I due piedi, ci avevo messo una piastra in mezzo da una traversa all'altra e un cavo e un pezzo di filo ammassa la carrozzeria, ma cioè quando sparava bene, era una meraviglia, solo che era una rottura perché il secondo dove passava era toccava, no? E allora ho dovuto buttare la fatta sempre lì ancora e lì la pacca dentro la busta. E poi io usavo solo quell'altra che avevo accordato, quella 50-60 cm che sia, quella andava molto bene e sparava. In macchina avevo il Zodiac 5036 con l'MP3, carta e una cannonata, dappertutto mi sentivano. E volendo quella penna si può montare anche al centro petto. E l'attacco è a PL, quindi basta mettere la presa a centrotetto PL, la avviti e la utilizzi. Io una volta ho fatto la prova, ho fatto partire un filo dalla massa, dove c'è PL, no? Ho trovato il modo. E poi l'ho legato a una vite che c'era sulla carrozzeria, no? Ma non ho notato né aumenti significativi né ricezione né in trasmissione. Infatti forse quell'antenna lavora già bene così com'è. Ma ecco! Forse lavora bene com'è, infatti, deve essere così, dovrebbe andare molto bene. Però quando c'è la massa è sempre meglio, ecco, tutto lì. Ok, c'è Graziano, avanti break, dormito hai, caccia su Gudrevoli, Giamelli di Buru, Graziano avanti, devo sì, caccia su Raghelli, ho i giurellini in mano, avanti, Marco e Fretta un pugno. Ciao, buonasera, ben sentito, ciao Marco, ciao Fuscu. No, cazzo me lo fanno i biatti, no, che non vogliono a puscio. Ma ci mangiate mezzo chiuso di frigiori, un caffè. Dai te, ma a te immagini di frigiori. Cazzo io stamattina dovevo scendere a Cesaraccia a prenderli, e invece cazzo mi sono dimenticato, ormai era già tardi, allora ci sono scesi. Però mi sono perso la mangiata di frittelle, vabbè, vuol dire che tenterò di mangiarle il lunedì, belle fresche fresche. Ok, se ne sei andato prima del pranzo, beh ciao, buonanotte. No, è tutta mezz'oretta, poi per la baletta, no, che preparenne, fenne, già mi tenne. Poi mi sono dimenticato, infatti chiamato poi da lui ha chiamato, cosa faccio, la avevamo così la vita, ma pensa, comunque non fammi nelle bande, Gianmarco, chissà può chiamare. sorella, che ho sentito un pelino su USB e io il clarifier ce l'avevo puntato come adesso, verso il su come mi hai detto tu ieri. Ascolta, da un apparecchio all'altro c'è la differenza. Io ho acceso il cobra e non riuscivo a centrarlo assolutamente. Comunque non ti deve provare la cassata, leggermente fuori, non c'è da fare niente. Lunedì mattina, se sei libero, prendiamo, saliamo l'antonello e gli fa fare quello che c'è da fare. Glielo facciamo fare e vedrai tutto va bene, capito? Perché da un apparecchio all'altro cambia e quella persona aveva il professionale, tu avevi un baracchino, chiaro che lui ti trova, certo tu a lui non lo trovavi perché lui poteva andare come vuole, però a te ti poteva centrare benissimo, capito? E tu magari non riceveva, e anche quello abbiamo provato anche noi due qua. Io non riuscivo a centrare come tu non riuscivi a centrare a me, capito? Però mettiamo a posto, ti devo preoccupare, grazie. Tu lì stai attento, saremo a Antonello e lo facciamo mettere a posto, non ti va a preoccuparti, capito? Ma se sai che non ti lampa niente, se sai su apparecchio buono, se mai devi lampare il suo. No, ma Antonello l'altro giorno ha detto che già lo sa lui dove deve spostare appena appena, non te lo ricordi l'altro giorno che me l'ha detto? Vabbè, ma c'è da preoccupare, è una cazzata, hai capito? È una cazzata, se tu c'è lingua che non riusciamo mai a intendere, non è che lui si ricaccano. Capitano, mettiamo a posto, non ti preoccupare, non è da buttare, è da mettere a posto e basta, è una cazzata. Ok, avanti Marco. Papà, io devo fare quelle T che sto uscendo, forse ho il portatore su Alghero, vado meglio che c'è un movimento. Ok, va, ciao Giovania, ciao Graziano, ciao Antonello, quando rientra se posso mettere il baracchino in macchina. Ciao Marco, non si spendere tutti i soldi. Quali soldi? Me li sono già tutti spesi quest'anno, questo fine mese. Già ce l'hai, ascolta, sotto, vero Giovanni, tutti questi digi. Vabbè, che vive in reddita come vivi tu, non grazie. Anche lui è la giornata, per cui tira avanti benino, benino, e per cui dai a tenere bei conto i soldi, non ti preoccupare, grazie, vero Marco. Ok, ciao a tutti, a dopo. Ho detto in macchina, siamo qua, va. Vediamo se ha ripreso Antonello, Barrale, visto che si trincheggia, o il delefere, grazie. Vai, dice in mezzo alle cose, gaggio, biondi, uia, gli ha risato il trappo, uia. Chissà cosa gli fa di amare. Già è poco rocchio, via, non ce l'ha mai dato un cinno. Già è stato i trappoli. Sempre in mezzo a chi si gozzi, Buonasera, è la ora di Abrillucci. Ciao Franco, ben sentito, anche se sei in mezzo al QRM già ci ho copiato, l'ultimo passaggio no, che ti ha tappato il QRM. Vabbè dai, vuol dire, aspetta scusa Ok, adesso va bene. Vuol dire che lascialo scaldare un pochettino, poi vedrai, vedrai. Avanti, Gio Marino. Buonasera, buon risentito. Lascialo scaldare piano piano, piano, piano, dopo si fa sentire, dai. Hai sentito, graziata. Ha fatto la gromina, prima ci ha mangiato un lavamano in grigioli, casi casi. Ma poi si è dormito con un violino in mano. E allora sei scidato. Allora è cantante sempre. Potrebbe anche andare, ma non so se faccio. Ora me la metto in campagna, me la metto. Non c'è la gabbia nel posto. Capo, sono curioso. Allora, fate un lunghissimo, se voi comunichi in ciaffugatore di ritiro, a vicino di sopra, capito? E invece che ogni tanto mi chiamano, no, e c'è della bocca, c'è sempre dell'apparecchio, intendo. Allora, infatti, ho detto, ma forse sei dimenticato, non sapevo che era lì. E adesso sei dimenticato per la revista. Va bene, dai, niente di particolare. Avanti, grazie. Aspetta, è bella Gigi, lo mette a Andelli. Bene, sta comportando bene, finalmente. Bello, silenzioso. Va benissimo. Infatti, no, è cattolico. È grandezza, per cui va. Va, si da un ottimo privato. Bene, bene, mi dopo si è rientrato Antonello, Grazie. Perché non ci saliamo domani mattina ad Antonello? C'è Antonello domani mattina. Lo sentiamo, lo telefoniamo, se c'è. Andiamo e glielo portiamo direttamente, senza stare a perdere il tempo. Ne disse e ne disastro, cazzo. Avete un ragione del genere, mi cominciano a rompermi, capito? Perché, ciò vogliamo, vai. Ehi, attenzione Antonello, lascia le bionde. Riprende, no. E allora, fra, dimmi qualche cosa, aiuto. E qua ti volevo dire, giocare qui, sono rientrato a lavorare, sono uscito alle 4 e mezza, alle 5, dai, sono uscito stamattina. E adesso oggi mi tocca, stasera almeno stasera mi tocca a casa, anche domani mattina alla stessa ora. E la serve una piccola, Giovanni. Io ho mangiato spinaci. ma un bicchiere solo lì, no? Di più, perché se mi vertigine sarebbe di più. Ma un bicchiere ogni tanto già lo bevo. Quando c'è roba piccante, un bicchiere me lo bevo sempre. Ok, allora accanto a me. Io ho detto buonasera, io ho mangiato spinaci. Spinaci? Ma mi sembra che i spinaci non fanno più effetto adesso, magari un tempo sì, ma c'è un ferro morto per cui non fanno più effetto questi spinaci, capito? Così è, grazie. Ah, io vado mangiando un bello piatto di gigione, da poi vado mangiando un piatto di cecciata a posto della bava di cecchi, con dentro salamini, carne di buco, salsiccia e così, dove tutto da poi vado mangiando la frutta, tre anzi. Da poi vado pigliando un caffè con le chiacchiere, la crostatina di marmellata e un altro caffè. Da poi mangio vinto la mazza caffè e per la mamma mangio torno a farmi, ci ho mangi. Ma tu ti immagini? Non puoi mangiare, dai! Ecco diventare un po' cuciccione, gara. Fra la faccia della fame. Ti devi tenere in linea tu, che non puoi, per quello che sai, non puoi mangiare né bere, non puoi. Grazie. Amati, Gigi Vulcano, buonasera. Buonasera a tutti, io dico la verità, a Giovanni Aldo, ma primo Minestrone e fa secondo un accoppiato di Minestrone. E poi Caura mi ha detto, mangi la minestra, ho sentato qualcuno in mano, gli due metri in acqua. Mauro, Mauro! Il tuo caso si apriamo per la Gigi, su una cosa. Amati di lui. Ci troviamo, già per l'autore. Ma dai, tanti che tu a me mi torni che sei in lingua, mi devi dare, sono contento che ti sei ammettato, che l'hai vista a tutti che mi devi dare in lingua, mi devi durare, sono contento, ma che sono venuto, avanti. Io ho sentito tutte le morte, l'hai inteso tutti, mi devi durare che sei in lingua. Ma ci sono sicurezze Roma a te, c'è vero lui? È positivo, dai, positivo. Io penso che mi ero pure dimenticato, beh. Me ne ero anche dimenticato. Comunque sto andando bene, sì, ha già messo un bicchierino alle di me la radio, mi ti invito in mezzo a quel RM, sì. Arrivo io Mari. Faccela lì, ben entrato. Va bene, grazie lì. Più bene così, cosa vogliamo? Già si fa sentire già. E come ti butti? Ah, tu eri la battuta che hai fatto poc'anzi, che ho capito che hai detto lui. Perché hai fatto la battutina piccola, capito? Ecco perché non te l'ho riconosciuto. E spaghetti, ma sei più forte anche le poche dire, e tu gli ho mangiato spinaci, ma la giovinità forte, no, gli ho mangiato spinaci, gli ho mangiato gaura, ma e poi non ha perfetto visto. Ma è tutto buono, l'importante è che i sacchetti sia pieno da voi, e unite il sacco, non moriamo, non moriamo di fame in secchio, ok, avanti fra. Importante che si niente, a cui del resto, quando mi si butti dentro non conta, scusate che si abbia pure un po' romano. Grazie Aro, ma io fatti i tuoi un vassoio, bisogna chiacchiere, da bere crostata di marmellata, da bere questo dolce, chi sono l'ha già assaggiata ancora, io sono di assaggiare, poi bisogna dolcetti, e l'altro vassoio bisogna quelle tre ciurine tutte girate al miele e le frittelle. Ma dite, ma forse il rosso è buona pure queste cose, ma se poi tutte queste cose non puoi mangiare tu, ma l'altro vado a pure. fa pure proprio a te, Grazia. Quando fai mezzo in caso in cui si vuole, senza chi se la mamma non è buona. Mi può per forza la caura era abbondante e lo riuscito, vedi tu. Ho preso questo per lui, è una cosa, no, mi piace pure a me. No, ma io dico la caura a fiore, ho preso io, ma questa caura a fiore, poi la fate tanti lui, a me mi piace semplice e semplice, hai salata. Buddita, con azzetta e l'uso, mi piace mangiarmi la così, hai salata. Così, quando è fredda me la mangio così, che ho preso, e mi piace. Pure a me con me c'è un piatto, ma io la mangio di tanti tipi, capisci, un tipo di cava così, però un effetto non è che mi batte, però ci sacava fuori la mangio ben volentieri, che piatti mi piace, però ripeto la mangio solo un fare con la brava e con i velocini, capisci? E se ci vuoi mi ripete un fondo, un pallone, là per me, tutta bianca, ragazza, poi saurita. Poi già di me e i sabbi, la prova andacciati da chi sa gaura così, saurita in mezzo alla fava, guarda lì, vedi le casse di riti brutti, a chi la beve un palo di veloce, ha un sapore che non ti sarà che mai di mangiarla. È positivo, positivo, mi pare che è stato caccato poi entrato, facciamo entrare subito, è stato un break. No, a me avevo cana di minestrone, mi dovevo bene, ne mangiavo, io una mezza patetta di minestrone, mi avevo mangiato due piatti, avevo cane, mangiavo minestrone, forse vira pure una cavola e mezzo con minestrone, che vira, vira pure mezzo, no, ma ci guarda mezza mangiata di minestrone, di piatti di minestrone, cavola e pezzo di carne, una cosa così, cosa vira pure la fragosa. Sono stato troppo bene, anche una gara, dai, perché durante la chita mangiamo pasta asciutta, una cosa, un latte, un panino, pure a volte mi piace. E io cane mangiamo un bel piatto di minestra, ma giocata pure di crudo, a dirà che in Italia, che secondo me non ne bagno. Facciamo entrare il break, chi era? Mi è sembrato Massimiliano o Claudio. Ehi, lui, sono io, là, Massimiliano. Sto provando la radio, lui, fai la gentilezza, ma dai, un controllo, buona buonasera a tutti, eh. Sì, la radio è buona, però si sente leggermente come un innesco sotto di una, come chi sa più parla ascolta, che è troppo alto, mi capito, ultimamente. Fai un altro passaggio più lungo, Massimiliano. Ma aspetta, non è che dobbiamo passare magari il micchi, boh, qualche cosa, guarda a vedere, così si è migliorato. Un po' si è abbassata troppo adesso, perché ma lascia fare l'ascolto per tale, perché si sente una, si è sentito una cosa, mi ha dato quell'espressione, però va meglio, dai, mi ha dato, mi sentivo come una specie di trombetta a ultimo. No, ne va a fare l'ascolto questa qui, no, è senza fare l'ascolto lui, guarda vedere. E c'è un'alternata, un coso suono sotto, c'è qua dove, anche se non parli, non schiacci solo la portata, c'è un suono sotto, un piccolo suono, giusto, è Giovanni, il bagliete mi so. No, è così, ciao Matteo. Ciao, Fra, c'è un'alternata? In questo passaggio no, in questo passaggio no, si sentiva appena appena la ventola, e non c'era più Massimiliano. Sì, ma dico, il radio va bene? Sì, può andare bene, però ogni tanto te l'ha fatta nuovamente quella ternata sotto, capito? Te l'ha rifatta. Oh, ma non è che come schiaccio il mic, no? Boh. Sotto, vedo, di nuovo appena toccato. Non lo so, guarda a vedere lui. Ha un muito sotto, fardi. E secondo come così tu che aumentava e diminuiva. Ma se tocco il microfono così diminuisce. No, non parlare, quando parli non c'è, hai capito? Nel momento che parli la cosa non c'è, la sparisce. È come se stai muto, portando in muta questa cosa c'è. Capito Massimiliano? Non lo so, però quando parli lo toglie questo problema, questo disturbo, nel mentre parli, però come finisci di parlare ce l'hai anche forte, capito? Così, io ti ascolto così, forse anche Franco, e Graziano, e Gio Maria, sarà la stessa cosa. No, no, negativo, negativo. Lo facciamo sempre. Così lo fa sempre? Sì, confermo. Sì, lo fa sempre. È questione di microfono da tavolo, ma non lo so, boh, non lo so, perché quando mentre stai parlando te lo toglie, fastidio, quando tu parli te lo toglie, non lo sento, forse non copre la voce, non lo so, però non lo senti, però dove dici di parlare c'è, è anche forte. Ma aspetta, metto il microfono originale, aspetta. Ho il microfono originale, vedi. Ciao Luigi. E ciao Antonio, buon pugno, buonasera. Buonasera, mi hai sentito Caruccio? In mezzo alle cose, è questo? Provano appena portante mutta. Ma questo non c'è niente, questo è perfetto. Il microfono dici? Beh, se con questo non te lo fa, è sicuramente il microfono. La radio va bene? Cosa? Va bene la radio? Sì, Massimiliano, va bene, la radio questa è pulita, va bene. L'altra era più forte con l'altro microfono, forse perché avevo il microfono alla tavola, la radio era più superiore. Però con questa non c'è questo disturbo, capito? Ho capito. Non è che non sia forte, vabbè, noi siamo molto vicino, è forte perché sei anche vicino a me, non so gli altri che sono lontano, Franco come ti ascolta, sicuramente la differenza la sente più di me lui. Sì, è chiaro, sì, come ma fa sempre? Questo l'ho rimesso l'altro, eh? Infatti lo sto facendo ancora con le... faccio con il microfono normale e non lo fa. E poi come hai detto tu, lui quando parla forse la copre la radio, capito? E non si sente quel rumore. Positivo, sembra che sparisca, ma sicuramente la radio ve lo copre come parla. Buonasera. Spostiamoci al 4, Giovanni, o Bonio, tutti quelli che ci siamo, spostiamoci al 4. Aiuto. Oh, sì. Sono passati al 4. Ho la 5.